C'è stata una generazione di mezzo, tra prima di oggi e oggi, più o meno prima della metà del Novecento e i giorni nostri, che ha fatto finta che tutto gli fosse dovuto, che tutto fosse inesauribile, che il mondo fosse a loro completa disposizione. E oggi i loro figli o nipoti raccontano a noi quello che dobbiamo o non dobbiamo fare. Fate una cosa, fate attenzione voi, fate qualcosa voi. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È lunedì, è il 28 di marzo, sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. È da quando sono nato più o meno che lo sento dire un po' da tutte le parti. Lo sento dire dai miei insegnanti, o dai miei ex insegnanti più che altro, dai miei genitori, dalla TV, dalle persone sul tram, perfino da qualche politico una volta ogni tanto. Questo refrain, questo pianeta, sta andando a rotoli. Se non facciamo qualcosa adesso, tra qualche anno ce ne pentiremo. Ormai è talmente ripetuto ed è talmente risaputo che quasi non ci stupisce nemmeno più. Cioè non ci stupiamo del fatto che a breve arriverà la settima glaciazione causata dall'effetto serra e quindi questo nostro mondo imploderà per poi rigenerarsi da solo, senza di noi, e incominciare da capo. La cosa che però mi stupisce è che ormai tutti ne siamo consapevoli, non è una novità. Tutti noi sappiamo quanto quello che facciamo possa essere dannoso per questo pianeta. Poi alcuni hanno deciso di porci rimedio o di provarci, alcuni ci tentano e altri invece se ne fregano. C'è chi monta i pannelli solari sul tetto, chi compra macchine ibride, chi ancora ricicla tutto fino al punto da non buttare via niente. E poi c'è chi non fa nulla. Ecco, se però oggi pensate che la puntata sia tutta dedicata al risparmio energetico, vi sbagliate. No, non accadrà. Non accadrà, primo, perché lo fanno già in tanti e soprattutto lo fanno in tanti che hanno la preparazione per farlo e quindi lo fanno meglio di me. Secondo, perché invece vorrei provare a prendere il problema da un altro verso oggi. Oggi mi piacerebbe che tutti gli ascoltatori di Radio 24, o anche gli ascoltatori di passaggio, oggi, tutti quanti, facessero una sorta di mea culpa collettivo. Mi piacerebbe che ciascuno ammettesse che è ben consapevole di fare delle cose che fanno male al pianeta e che proprio non sono in grado di rinunciarci. Parlo di cose piccole, non dico tipo versare tonnellate di petrolio in mare o scarichi chimici nei fiumi, no, dico quelle cose piccole che però quando sentite magari per caso in TV o leggete di un esperto che parla e segnala tutte quelle piccole cose appunto che non andrebbero fatte per aiutare il pianeta, voi pensate, sì, quella la faccio, quella pure e pure l'altra. E quindi concludete con un grande sì, è vero, inquino pure io, ma a quelle cose io proprio non riesco a rinunciarci. Non riesco a rinunciare a fare docce lunghissime, a guidare automobili bellissime d'epoca ma super inquinanti. Non riesco a non mangiare cibi di altri continenti che quindi ci mettono giorni e carburante per arrivare di qua. Non riesco a non usare elettrodomestici che consumano tonnellate di energia. Ecco, se volete ammetterlo e fare mea culpa, io sono qui. E il numero è 800240024 oppure 349-238-6666 per mandare gli sms. Lo dico per quella categoria che ho prima definito di passaggio, nel senso che gli altri più o meno il numero se lo ricordano. Se lo ricordano e molti mi hanno anche già scritto sul profilo Facebook che è Matteo Caccia, io sono qui, tutte le piccole cose a cui non riescono a rinunciare, anche se sono consapevoli, che possono fare male, molto male a questo pianeta. Ad esempio, Paola, compro frutta che viene da lontano, Luca pure, vado pazzo per il mango, il pomelo. Cos'è il pomelo? Aspetta, ce l'ho, è una roba che è a metà tra il pompelmo e la mela. Tipo, no? No, tra il pomelo. Vabbè. Il pomelo e altri frutti tropicali ed esotici. Ecco, adesso mi sento in colpa. Bravo, Luca, sentiti in colpa. Maria Lucia, non riesco a non usare cibi confezionati sotto vuoto o ad atmosfera modificata. Carne, insaccati, verdura. Vabbè, però questo è difficile non trovarli più che altro, sti cibi. Credo che il 99,9% delle persone li usi. Io dico cose tipo, che so io, c'avete una barca enorme che consuma 10 litri di gasolio al secondo quando sgasate. Ok, in cui non riuscite a farne a meno. 800240024. Giancarlo, non riesco a lavare i piatti riempiendo il lavello d'acqua e poi sciacquare solo alla fine. Riesco a lavarli solo se uso acqua corrente. Poi non leggo gli ebook, devo avere un libro di carta in mano. Dario, non riesco a lasciare il PC spento. In che senso non riesco a lasciare il PC? Quando non lo usi. Mi auguro. Francesca, Butto materiale non riciclabile, tipo lampadine e plastica, nel cassonetto da riciclare quando in realtà non sono riciclabili, ma non so dove andare a buttarli. Ma Francesca, ci sarà un raccoglitore? O chiedi al tuo comune, chiedi ai tuoi vicini di casa. Giulia, l'automobile è troppo comoda, l'asciugatrice, troppo, l'asciugatrice credo che sia la cosa in assoluto che consuma più kilowatt al secondo. Il computer è sempre acceso, pure lei. Sopperisco a tutto questo però spegnendo l'acqua quando mi lavo i denti e quando faccio la doccia. Spengo l'acqua tra lo shampoo e il bacio. Questo è veramente cioè per lavarti la coscienza, Giulia. Ma abbiamo fatto un sacco di ricerche con la redazione riguardo a tutti. Sapete che è pieno di persone che fanno tipo persone, più che altro giornalisti o chi abbia voglia di creare una narrazione attorno al risparmio. Uno di questi è stato questo giornalista, un ricercatore di Cambridge, anticonsumista sfegatato, si presenta in questo modo. Si chiama Tristram. Vabbè, insomma, chi se ne frega. Il libro si chiama Sprechi ed è pubblicato da Bruno Mondadori in Italia. Lui che cosa ha fatto? Ha deciso che per un anno avrebbe vissuto solo mangiando i cibi buttati via dai supermercati. Quindi il libro che racconta come ha fatto e come peraltro ha vissuto benissimo, lui sostiene, in questo anno, è pieno anche di foto che raccontano come in gran parte dei supermercati americani questi cibi all'esterno, dove ci sono i cassonetti, sono pieni di cibi ancora buoni, credo, forse vicino alla scadenza o appena scaduti. Il libro comunque è interessante, anche se lui se chiaramente sembra un folle. Il libro si chiama Sprechi, il cibo che buttiamo, che distruggiamo e che potremmo utilizzare. Questo è uno dei tanti, però sono arrivati altri messaggi, scusate, che volevo leggervi a proposito delle cose irrinunciabili. Eccolo qua, Emilio. Le mie docce sono lunghissime, amo stare sott'acqua bollente per un'ora e mezza. Sei da denuncia, Emilio. Cioè, te lo dice uno a cui piace stare sotto la doccia. Soprattutto prima mattina, prima di mettermi a studiare. Il minimo che ci resto sotto è 30 minuti. Paolo, non credo di essere mai riuscito a uscire di casa senza aver lasciato accesa almeno una luce. E a volte mi capita anche col termoventilatore del bagno. A parte che il termoventilatore del bagno, cos'è, degli anni 80? Tipo, cara, sei in bagno, no? Sono in caldo bagno. Chi è che c'ha il termoventilatore in bagno? 80024 0024, qualsiasi sia. Quella cosa che voi sapete che fa un grande danno al pianeta, ma non riuscite a farne senza, il numero è sempre quello. Anche l'SMS 349-238-6666. Tutti quanti mi avete chiesto... No, tutti quanti no. Vabbè, ogni tanto esagero, ragazzi, avete ragione. Scusatemi, è un periodo un po' così. In molti mi avete chiesto: com'è andato questo fine settimana senza acqua? Com'è andata con questa nuova fissa della tua fidanzata? Ecco com'è andata. È andata così. Sto fine settimana è stato un incubo. Credevo che non ce l'avrei fatta ad arrivare alla fine. Non vedevo l'ora che arrivasse il lunedì per poter venire qui in radio e usare di nascosto l'acqua del rubinetto dei bagni per lavarmi i denti e sciacquarmi la faccia. Speravo tanto che questi giorni fossero risolutivi e magari a Natale passasse il trip del risparmio energetico. Invece in 48 ore ne ha fatte di tutti i colori. Dunque, prima mi ha obbligato ad andare fino fuori Cremona, dove c'è il più importante rivenditore di pannelli fotovoltaici, per farci fare un preventivo di un impianto che sostituisca in toto le nostre fonti energetiche. Poi si è iscritta in ordine al car sharing, al carpooling e a qualcos'altro che aveva la parola car all'interno, ma non ricordo poi con quali risvolti. Sabato pomeriggio ha disdetto i suoi abbonamenti a riviste cartacee perché sostiene che leggerà tutto solo ed esclusivamente online. Poi siamo andati a fare la spesa in un supermercato biologico, nonostante io abbia cercato di convincere che il biologico non c'entra molto con il risparmio energetico. Lei però mi ha risposto che c'entra e come, perché lì si trovano tutti i prodotti a chilometri zero. Poi mi ha trascinato alla fiera di Senigallia per comprare una bicicletta, dal momento che avrebbe abbandonato ogni forma di trasporto che liberasse anidride carbonica nell'aria. Il fatto è che quando ci siamo trovati davanti a queste quattro biciclette usate a 30 euro l'una, io ho provato a dirle che quelle bici sono rubate, che lo sanno tutti che le biciclette che vendono in quell'angolo della piazza sono rubate. Addirittura c'è gente che viene a cercarle qui, le loro bici, dopo che le sono state rubate. Niente, oltre a rischiare le botte da parte del venditore, ovviamente mi sono sentito dire che ero solo insensibile alla causa del pianeta Terra. Siamo arrivati a sabato sera, poi, ovviamente, carichi di broccoli dell'orto, di melanzane locali e rape biologiche, ci siamo messi a preparare una cena a chilometri zero. Che a dirla così mi faceva pensare ad una cena tipo da un concessionario a cui strappavi un buon prezzo per un'auto nuova ma già immatricolata. A cena Nathalie e la sua capacità dialettica ovviamente ci hanno messo molto poco a convincere i suoi amici che il mondo stava andando in fumo e che era necessario fare qualcosa. E fare qualcosa, nel nostro caso, significava non sprecare le risorse che oramai erano scarse e quasi alla fine. Dopo la cena, alla fine della quale avevo ancora una fame che mi sarei mangiato un vitello cresciuto a mangimi chimici, ci siamo seduti sul divano. O meglio, io mi sono seduto sul divano, loro rigorosamente per terra. E ci siamo apprestati alla visione di Una scomoda verità, il documentario di Al Gore, quello che racconta di come il mondo sia malato e la sua malattia sia l'uomo e la sua corsa al profitto. Seguito poi da un documentario che spiega che se la temperatura della Terra dovesse alzarsi di 6 gradi centigradi, non dico 106, manco 56, no, solo 6 gradi centigradi, la razza umana con tutti i suoi derivati sparirebbe dalla faccia della Terra. Solo che prima che incominciasse io ho preferito salutare la banda di neoterroristi verdi e mi sono rinchiuso in camera, sperando che durante la notte veramente arrivasse la sesta glaciazione e io non mi accorgessi nemmeno della mia fine per assideramento. Il riscaldamento globale aumenta, sempre più in fretta. A un certo punto, questo fenomeno potrebbe diventare irreversibile e non saremmo più in grado di arrestarlo. La domanda è, ora che lo sappiamo, che cosa faremo? Anche lo scenario peggiore, quello dei 6 gradi, non significherebbe la fine della vita sulla Terra. Ma il nostro pianeta sarebbe estremamente diverso da quello che conosciamo oggi. Con quali conseguenze? Le migliori menti della Terra concordano su due cose. Non lo sanno e sperano di non scoprirlo mai. Ecco, è lì io mi sono svegliato sudato fradicio. Natalie dormiva serenamente, io mi sono alzato e dopo giorni mi sono fatto una doccia. Sembrava che non me la facessi da anni e come tutte le cose normali a cui ci disabituiamo, mi è parsa splendida, mi è parsa irrinunciabile. Perché farsi la doccia è una delle cose per cui ha senso vivere. Deve essere la stessa sensazione che provano i neonati quando gli fanno il primo bagnetto. E mentre ero lì, e mentre lasciavo l'acqua bollente scorrermi addosso, mentre la sentivo tamburellare sul mio cranio e poi scendermi in piccoli fiumiciattoli lungo la guancia, sotto l'occhio, fino al naso, poi giù, lungo il mento, mentre mi godevo quel piccolo enorme momento di riappropriazione della normalità, pensavo a tutte le cose che fanno male al pianeta e che fanno bene a noi, anzi, a me. Cose tipo la pasta di grano duro, che per cuocerla serve il gas, risorsa scarsa che prima o poi si consumerà. La mia Vespa, che libera CO2 dal motore a scoppio e inquina l'aria di questa maledetta città. La Fiorentina che mangio nel ristorante vicino al cimitero monumentale, che per essere allevata produce scarichi e residui nell'aria e nella terra. La barca a vela che non sembra, ma insozza al mare ogni volta che si accende il motore per mancanza di vento. I libri di David Foster Wallace che sono dei temi di 1000 pagine e per stamparne uno mezza foresta del Borneo rischia l'estinzione. Sciare, che colonizza le montagne, e fare l'amore, che produce scarti di lattici non biodegradabili. Giocare a calcetto, che per illuminare il campo servono chissà quanti kilowatt di energia e per riscaldarlo manca pensarci. L'Inter, che per mantenerla Moratti è costretto a estrarre tonnellate di petrolio che a breve si esaurirà. Ecco, e mentre l'acqua continuava a fluirmi sulla pelle senza che io facessi nulla per sprecarla, ho realizzato che ormai era tardi, che non c'era più tempo per cercare di fermare la piena. Ho avuto la sensazione che tutte le pene del mondo, tutta la povertà, tutta la miseria e la dispersione delle risorse mi stesse annegando. Ho deciso che avrei fatto quello che ho sempre fatto, che sarei stato attento alle misure, perché è sempre una questione di misura. Ho pensato che il danno ormai era già stato fatto, che io non volevo pagare il conto di qualcun altro, che c'è stata una generazione di mezzo tra prima di oggi e oggi, no? Prima della metà del Novecento e i giorni nostri, che ha fatto finta che tutto fosse dovuto, che tutto fosse inesauribile, che il mondo fosse a nostra disposizione. E ora i loro figli e i loro nipoti ci raccontano quello che noi dobbiamo o non dobbiamo fare. Fate attenzione voi, fate qualcosa voi. Io posso fare cene biologiche spendendo 3 volte quello che spenderei per una spesa normale, posso mettere i pannelli sul tetto, ma se non decidete voi che le cose vanno raddrizzate, non si raddrizzeranno mai. Ed ero talmente arrabbiato che sono rimasto sotto la doccia altri 20 minuti per rilassarmi, Poi sono uscito e mi sono preparato una pasta sul fornello a gas. Mi sono guardato la replica della finale di Champions di Madrid e mi sono letto 1000 pagine di Infinite Jest. E poi sono andato a svegliare Natalie. Burn the ties, let the music they play, electrify, bring out the poets, bring out the punks, watch them give rise to a brand new funk. Across the nation, dance to a different drum. È nato un grande dibattito sul termoventilatore in bagno. Luca mi scrive: il termoventilatore in bagno ce l'ha chi ha un termotecnico imbecille che ha sbagliato i calcoli dell'impianto. Ho la sensazione che Luca sia tra questi. Fiore, io ho il termoventilatore in bagno. Quando d'inverno ti alzi alle 5 del mattino con il riscaldamento ancora spento è utile, ma forse a quello la dormi ancora. Fiore, sì, purtroppo sì. E un altro ha il termoventilatore, Laura. Laura anche lei è un pochettino da galera. Termoventilatore installato questo inverno perché la finestra del bagno non si chiude bene. Anziché cambiare la finestra, ho installato termoventilatore in bagno. Benissimo. Insomma, tra gli altri, a parte il termoventilatore, ce ne sono diversi che non si vergognano di, come dire, di dare il loro contributo a uccidere questo pianeta. Mi ostino a girare con la mia Vespa Euro Zero. Non riesco a rinunciare ai ristoranti giapponesi. Ma c'è il problema probabilmente del pesce che arriva da chissà dove. Non riesco a rinunciare, Serena, non riesco a rinunciare a buttare lo scarico dell'olio dei sottaceti nello scarico del lavandino. Lo so che inquino, ma dove lo butto? Questo effettivamente è un problema, Serena, perché anch'io quando mangio tonnellate di acciughe poi non so mai dove buttare quel residuo d'olio. Non riesco a rinunciare agli amplificatori a valvole, hanno un suono troppo bello. Perché gli amplificatori, giusto, mi chiedo anche a Roberto di là. Bruno, me la spieghi quella degli amplificatori a valvole? Inquinano? Insomma, davvero, non capisco perché. 800240024. Andiamo. E poi c'è il grande problema della raccolta differenziata. E Mario da Pescara è d'accordo con me. Pronto, Mario? Pronto, Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Senti, tu che problema hai con la raccolta differenziata? No, non è che è un problema. I miei figli mi dicono di farla, ma io niente. I tuoi figli te lo dicono? Sì, miei figli. Quindi sono loro che guardano il loro futuro, nemmeno tu. Sei pure un padre disperato proprio. Sono colpevole, anche perché di figli ne ho parecchi, però guarda, niente, una cosa che non ci... Me lo dico, lo faccio. Ma scusa, ma sai che tra l'altro tu di solito ci si può incorrere in una multa, no? Se... La mia zona non è ancora, diciamo, investita, diciamo, da questa legge, da questa normativa. No, però si stanno avvicinando, io sono ai confini di Pescara. Cioè, la vivi come un'invasione. Mario, senti, dividi sti sacchetti e vedi di prepararti. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. No, Giampaolo, questa è magnifica. Pronto, Giampaolo? Ciao, grazie per essere qui. Ci sei, Giampaolo? Sì. Senti, cosa vuol dire che tua moglie dorme con l'asciugacapelli elettrico acceso? Quando lei va a letto, oppure anche si riposa al pomeriggio, accende il phone. Ma si mette a dormire. Ma accende il phone? No, scusa, spiegami un attimo, perché ha bisogno di caldo, perché deve asciugarsi i capelli, perché trova confortante il rumore. Bravo, deve essere, no, perché ci vuole il rumore, ma il rumore è abbinato al caldo, tant'è che io a un certo punto ho detto: ma senti, ma non possiamo registrare sto rumore così poi va tutta notte? No, ma adesso mi ha spiegato perché manca l'aria calda. Ma scusami, ma dove lo tiene? Sul cuscino? I due bambini piccoli, uno di 4, che sono partiti nati col phone acceso. Sì. Tutta la famiglia va a letto col phone acceso. No, ma Giampaolo, perdonami, ma è pericoloso anche, può prendere fuoco la casa, immagino. Ma non so, più che altro per il momento fulminiamo il phone. Ma, ogni due mesi, un mese e mezzo salta il phone. Ma scusami, ma dove lo tiene? Appoggiato... Infatti, sto cercando dei phone di quelli, sai, professionali, pazzeschi. Beh, sì, certo, però scusami, dimmi dove lo tiene, in mano, appoggiato sul cuscino? Sì, in mano, oppure lo appoggia per terra. Ma e se lo punta dove? In testa? Sì, lo punta addosso in modo che c'è l'aria calda. È un cinema, comunque. che è un cinema, lo immagino. Comunque esistono anche. Allora, una volta arrivo, mi dimentico le chiavi, lei suona, chiedo, non sente più niente. Telefono, campanelli, chiuso fuori le due di notte, tirato di quelle ostie. Giampaolo, grazie, grazie mille. E tu, se tu finora sei testa della classifica. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in mezzo a un bosco. Devo dire, lo sapete, non amo particolarmente le foto paesaggistiche, però questa è particolare perché è la foto di una strada. E non so come mai, ma le strade hanno sempre un fascino nelle foto, soprattutto le strade che curvano. Boh, sarà perché banalmente non vedi dove vanno. È un bosco completamente disadorno, quindi è inverno, potrebbe essere autunno l'inizio o anche adesso, nel senso che poi non so quali piante cominciano a mettere fuori le foglie, però ce ne sono alcune che sono ancora completamente spoglie. No, però credo che sia autunno, perché ci sono le foglie per terra e adesso non ci sono più. Potremmo essere ovunque, ma la sensazione è che siamo in un bosco del nord Italia. Angelo Sormani, 47 anni, oggi approfitto di un pomeriggio di ferie per fare una passeggiata a distensione nei sentieri della Valle dell'Ambro. Sono solo con i miei pensieri, io sono qui. Ho imparato una cosa, dire semplicemente l'area geografica per non sbagliare. La Valle dell'Ambro, 800240024, agli sms, parliamo degli sms, perché si è creato una sorta di disastro a causa della moglie di Giampaolo che dorme con il phone acceso e adesso anche i figli. Allora, consiglia Giampaolo, scrive Giacomo, l'uso di un orologio a presa, lo imposti per mezz'ora sino a che la gentile moglie s'assopisce. E poi mi spiega Bruno che gli amplificatori a valvole banalmente consumano molto di più di quelli a transistor. Poi, per quelli che invece buttano gli oli alimentari nel lavandino, me compreso, Luca, nelle isole ecologiche puoi portare gli oli alimentari da smaltire. Però, dove sono le osi ecologiche? Cioè, le osi sono le discariche, tipo, che non si chiamano più discariche. Ma... Poi mi spiegano che un'auto a 140 all'ora consuma il 35% in più di un'auto che va a 95. Era per questo che infatti fuori Milano avevano deciso di mettere sulla tangenziale il limite a 70 fino a qualche giorno fa. Poi basta, perché l'aria si è ripulita. Se Greenpeace ascolta la tua trasmissione, viene a prendervi tutti, soprattutto ora che ha poco da fare in Giappone. Michele, la mia Ducati Euro Zero, ma inquina molto meno di una diesel. Ma poi è arrivato questo sms che dice... consumare carta, come si fa senza? È troppo comoda la carta igienica. Michele da Torino, che abbiamo scoperto, usa a volta mezzo rotolo di carta igienica. Andiamo a Milano da Oscar. Pronto, Oscar? Sì, ciao Matteo. Ciao. Come stai? Buongiorno, bene tu? Bene, bene, abbastanza. Senti, tu ti sbarbi tutti i giorni, come moltissimi uomini, e, sì, e fai andare quanti minuti di acqua calda? Almeno 5 minuti, cioè non riesco a chiudere, diciamo, l'acqua calda quando mi sbarbo e poi riaccenderla per pulire, cioè la lascio andare corrente. Ma tutto questo, come dire, migliora il tuo modo di farti la barba oppure semplicemente è un'abitudine? No, per me è un'abitudine. Che cosa fai di lavoro, Oscar? Io sono pittore. Ah, sei un pittore, quindi diciamo hai proprio bisogno di farti la barba ogni... Beh, non proprio ogni giorno, però è un'abitudine, insomma. Oscar, senti, ti ringrazio molto, buona giornata. Figurati, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. E poi c'è Vittorio, che è un tranviere e guida mezzi inquinanti e non può fare a meno ovviamente perché lavora e in questo momento sta guidando. Pronto, Vittorio? Ciao, Marco. Sono Matteo. Oh madonna, no, ho sbagliato, scusa, sono un po' emozionato. Hai sbagliato nel senso che volevi chiamare un'altra trasmissione? No, assolutamente, sono emozionato, anche perché comunque sono spesso volte ti chiamo, seguo la tua radio, ho comprato un telefonino con la radio per ascoltarti, sbagliato io. Ma figurati, su che linea sei, Vittorio, su che linea sei? Sull'altra linea, sulla linea che ci siamo sentiti l'ultima volta. Cioè? Dove stai andando? A Posillipo. A Posillipo, a che altezza ti trovi di Napoli? In via Posillipo. Ah, proprio in via. Ma senti, ma se sei un tranviere, in teoria non è inquinante il tram. Ma tranviere non significa guidare il tram, è una definizione. Sì, è una definizione che definisce appunto il mestiere. Davvero, scusami, non si chiama autista quello dei pullman? No, il tranviere. Tranviere comunque. Addirittura dovrebbe chiamarsi operatore d'esercizio. okay, il termine tecnico. Senti, ma quanto inquina sto autobus che guidi? Ma io credo, guarda, innanzitutto credo che facciano il 2-3 al litro. Però. E allora, anche perché i nostri sono un po' vecchi. C'era un grande parco macchina dove ci sono anche mezzi a metano, sì. Però attualmente siamo con quelli più vecchi. Ma scusa Vittorio, ma quegli autobus che hanno la scritta tipo ecodiesel, autobus verde, sono solo degli adesivi attaccati? No, ci sono quelli che appunto vanno a metano e addirittura ci sono quelli ibridi che vanno anche a motore elettrico, però attualmente insomma questi qua che guidiamo sono abbastanza elevati, hanno un tasso elevato di inquinamento. Senti, ogni volta che guido, prendo servizio, mi rammarico del fatto che appunto ogni volta che scattiamo per andare via dalle fermate c'è un piccolo fungo atomico. Va bene, Vittorio, ti auguro buon lavoro, grazie per essere stato Marco, qui. Ciao. No, Matteo, cioè, ce la facciamo. No, confondo con Marco. Ma niente, Vittorio, chi se ne frega. Ciao, buona giornata. Grande, ciao. Ciao, grazie. È arrivato anche questo messaggio. Non posso fare a meno della carne bovina. Questi esseri dello scarso rendimento metabolico che a fronte di chili d'erba ingurgitati ingrassano di qualche etto. Il resto espulso come scarto è una delle cause dell'effetto serra. A questo proposito, e ora Roberto, ti chiedo al volo se trovi una basettina, perché c'è un pezzo tratto da un libro che parla proprio di questa roba qua, parla dell'allevamento intensivo, è un libro molto famoso che si chiama Se niente importa di Jonathan Safran Foer, e un estratto parla esattamente degli allevamenti intensivi e fa così. È antropomorfismo provare a immaginarsi dentro la gabbia di un animale d'allevamento, è antropodiniego non farlo? Una gabbia per galline o vaiole concede in genere a ogni animale una superficie all'incirca di 4 decimetri quadrati, uno spazio grande poco meno di un foglio A4. Le gabbie sono accatastate in pile da 3 a 9, in capannoni privi di finestre. Entra mentalmente in un ascensore affollato, un ascensore così affollato che non riesci a girarti senza sbattere contro il tuo vicino, un ascensore così affollato che spesso rimani sollevato a mezz'aria, e che è una specie di benedizione perché il pavimento inclinato è fatto di fil di ferro che ti segue ai piedi. Dopo un po', quelli che stanno nell'ascensore perderanno la capacità di lavorare nell'interesse del gruppo, alcuni diventeranno violenti, altri impazziranno, qualcuno, privato di cibo e speranza, si volgerà al cannibalismo. Non c'è tregua, non c'è sollievo, non arriverà nessun addetto a riparare l'ascensore. Le porte si apriranno una sola volta al termine della tua vita per portarti nell'unico posto peggiore di quello. Ecco, questo è un libro che se avete voglia di diventare vegetariani potrebbe essere un'ottima idea leggerlo. La frase "se niente importa", che è il titolo in italiano di questo libro, deriva da una frase che la nonna di Safran Foer gli disse quando gli raccontò l'episodio in cui appena durante la guerra, scappata credo da un campo di concentramento, le proposero di mangiare un pezzo di carne di maiale che non essendo kasher, quindi non potendo essere mangiata da un ebreo che seguiva la religione ebraica, lei non mangiò, dicendo "se niente importa non c'è più niente da salvare". Ecco, non so se tutto questo ha a che fare, però volevo leggervelo velocemente. Però sentiamo un'ultima telefonata prima di leggervi un'altra cosa. Cesare da Milano, pronto Cesare? Oh, pronto, sì. Ciao, come stai? Bene. Senti, tu che cosa fai per rovinare questo pianeta? Sempre la televisione accesa di notte, sempre in continuazione. Ma perché non riesci ad addormentarti? Esatto. Senza? Manca il computer, sono al computer, ma la televisione è sempre accesa. Ma scusami, comunque allora a questo punto anche a te do lo stesso consiglio che dava, che dava Giacomo a Giampaolo, cioè una presa con un orologio a presa. Sempre acceso, ma in più ogni tanto ci attacco anche qualche lucina blu. Già che ci sei, ma vivi da solo, Cesare? Sì, esatto. Perfetto. Grazie, Cesare, buona giornata. Okay, grazie, ciao. È ufficiale, direi che è ufficiale che questo mondo si autodistruggerà a breve. Vorrei chiudere con una cosa che non c'entra. Io ho una passione per i messaggi fuori contesto che mi arrivano. Quando io chiedo una roba e arrivano messaggi fuori contesto, provo proprio una sorta di morbosa attrazione. Ed ero arrivata una mail, io sono qui, @radio24.it, è arrivata durante il fine settimana. Me l'ha scritta Massimo. Il titolo è "Io sono un istintivo", non c'entra nulla con quello di cui parliamo oggi, ma la trovo meravigliosa. È il 30° minuto del primo tempo. Gioco centrocampista davanti alla difesa. La partita è molto importante perché la vittoria potrebbe proiettarci al primo posto in classifica. Tanti spettatori, tecnici di società giovanili importanti e giornalisti specializzati di calcio giovanile. Il numero 10 avversario arriva nella mia posizione. Sta per ricevere la palla, ma io non gli do il tempo per stopparla. Lo anticipo e faccio ripartire i compagni. Un bel gioco. Pulito. Non lo so perché lo fa, ma forse per la rabbia si avvicina a me e mi colpisce con una testata. E poi dice: non farlo più. Io rimango perplesso. E poi l'istinto mi assale. Gli corro dietro, cinturo la sua testa sotto il mio braccio e comincio a tirargli cazzotti come non ho mai fatto. Cadiamo in terra, io continuo a dargli cazzotti. Poi ci dividono e allora mi calmo. L'arbitro mi espelle ed ecco che ancora l'istinto prende il sopravvento. Alzo il braccio al cielo, chiudo la mano a pugno e alzo il dito medio in direzione delle tribune. Spettatori arrabbiati, mio padre furioso e carriera finita. Sì, io sono così. Sono istintivo. Avevo 16 anni all'epoca e ancora oggi a 35 non ho imparato a trattenere il mio istinto. Lo dico perché quando giovedì, durante la tua trasmissione, è partita la canzone Power to the People, mentre guidavo il mio furgone, io ho fatto una cosa. Ho abbassato il finestrino, messo fuori il braccio, girato la mano verso il cielo, chiuso le dita tranne il medio e mandato a farsi fottere tutto il mondo. Sì, ho mandato a farsi fottere tutto il mondo senza motivo ben preciso, soltanto per la voglia di farlo. Non ho ancora imparato a trattenermi. Oggi però, a differenza di allora, ne sono consapevole. Ecco, io sono qui, questo sono io, e chi non mi vuole, vada a farsi fottere. Ecco Massimo, questo pezzo è dedicato a te, perché questa mail era talmente talmente fuori contesto, ma talmente bella, che abbiamo dovuto rimettere Power to the People. Io ho la sensazione, ho la convinzione che la radio, tra le varie cose che debba fare, debba avere un effetto liberatorio, e con la musica chiaramente può averlo alla sua massima potenza, alla sua massima espressione. Io ringrazio Massimo per avermi scritto una mail fuori contesto e vi invito a mandarmele davvero. Io sono qui, @radio24.it. Io intanto ringrazio Roberto Scaltritti, che è stato di là in regia al banco, ringrazio Laura Faggin e tutti quelli che sono intervenuti e che purtroppo non ho voluto sentire. Un ultimo messaggio però, che in effetti è importante: non riesco a gettare le batterie nei luoghi consoni e le getto dove mi capita, forse anche perché quei luoghi consoni non sono così facili da trovare. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?